Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono le 11.08, io vi stavo aspettando perché forse ho finalmente la ricetta, il metodo capace di trasformare in un ventenne un quasi pluriventenne. Ho 32 anni e sono più in forma di quando ne avevo 20. Ho fatto 18 anni di inattività, zero sport, zero movimento, molto alcol, si intenda non sono alcolista, al fine settimana molto fumo. La misura è stata colma quando non riuscivo più a toccare le ginocchia con la punta delle dita. Sì, il ginocchio, altro che la punta dei piedi. Alla visita fisiatrica mi sono sentito uno schifo. Dopo 2 anni sono in forma. Infilo la testa tra le ginocchia, riesco a correre anche per 10 chilometri. In genere ne corro 5, 6, 3, 4 volte la settimana in estate, meno in inverno. Sono sciolto, più veloce e ho ripreso in mano l'antica passione dell'arte marziale tradizionale cinese. La scogliosi congenita si è ridotta e non so più cosa sia il mal di schiena, a parte quello sano per lo sforzo dell'allenamento. Voglio dare il mio metodo condensato in pochi punti. 1. Niente palestre, sono fonte di distrazione, quando ci si allena appunto. 2. Ascoltare il proprio corpo. 3. Dialogare con la sofferenza. 4. Guardare indietro a ciò che si riusciva o non si riusciva a fare. Ciò soddisfa di più e dà carica piuttosto che non pensare a impossibili traguardi. 5. Non strafare. Roberto. E allora scriveteci anche voi il vostro personale metodo per fare gol, tornare ad uno stile di vita sano. Inviatecelo in 3 punti al 349-238-6666. State pronti perché il programma migliore potrà ricevere a casa il libro di oggi. Dottor Confalonieri, buongiorno anche a lei. Anche lei sembra un ventenne, no? Beh, sono un cinquantenne in forma, quasi come Fiorello che è mio coetaneo. Devo dire, anche il mio. E devo dire che la lettera del nostro Roberto ha un po' lo stile, no? Del sì. Nuovo spot di Fiorello, che io come sempre trovo magnifico, no? Fiorello è straordinario. Lui è lui. Esatto, e lo spot è estremamente efficace, sì. Allora, andiamo ad analizzare questo metodo che sembra molto efficace. Noi crediamo alla parola, non abbiamo naturalmente avuto modo di... non ci ha mandato Roberto una sua foto, un filmino per farci vedere esattamente che cosa fa, ma... dottor Confalonieri, sì, a caldo cosa le sembra? Riprendiamo il metodo, riprendiamolo punto per punto, molto sinteticamente, perché ci consente di fare alcune considerazioni importanti. Niente palestre, sì, ma fino a un certo punto, nel senso che la palestra può essere per qualcuno lo strumento per fare sport in modo intelligente, per trovare la motivazione, per qualcun altro invece no, perché è capace di farlo da solo, quindi non generalizzerei questo punto. Ascoltare il proprio corpo, senz'altro sì. Mm. Questa è la base. Anche quando alleniamo atleti di altissimo livello, noi partiamo proprio dalla costruzione della capacità di ascoltare il proprio corpo per capire fin dove si può arrivare. Dialogare con la sofferenza, deve essere una sofferenza positiva. A me non piace questa definizione di sport come disciplina, sport come fatica, sport come sofferenza. Se è il dolore muscolare che poi prelude a un miglioramento della propria efficienza, va bene. Se è una sofferenza fine a se stessa, no. E quell'allenamento a stringere i denti per andare avanti, sì, ma deve essere fatto in modo... Deve avere un senso, uno scopo. Perfetto. E infine, fondamentali, gli ultimi 2 punti, guardare indietro, motivarsi attraverso il miglioramento. Questo è fondamentale, cioè porsi degli obiettivi e vedere che siamo sulla strada per raggiungerli e non strafare, che alla fine è un altro modo per dire gradualità. Ma allora noi riprendiamo il punto. Abbiamo visto che il nostro Roberto dice, riguardo alle palestre, niente palestre. Lui è categorico, insomma la palestra non gli piace. Amore, per quando nasce il bambino dovrai essere 90 kg. Ora, alla pesa di stamattina, la bilancia indicava 97. No, l'unico sistema in realtà per perdere del peso, se uno ha la costanza, è la palestra. Poi ce l'abbiamo tutti sotto casa, più o meno una palestra. E sì, va, io sono andato, ho cambiato abbigliamento, per andare in palestra ho comprato la tutona. Perché c'è una regola non scritta ma ferrea dalla palestra che dice che più sei grasso e più ti devi coprire. Sono andato in palestra e proprio come sono uscito dallo spogliatoio, mi è venuto incontro l'istruttore proprietario. Un uomo, inutile dirlo, perfetto. Mi arrivava incontro e mi fa: Allora Daniele, per cominciare mi fai 40 minuti di ciclette. Io non voglio fare la figura del cialtrone, ciccione, io ce la faccio a fare 40 minuti di ciclette continuativamente, però per farlo mi devo immedesimare. Io per quei 40 minuti lì non sono più il ciccione Daniele Racco, assolutamente no. Io sono Fausto Coppi, davanti a me c'ho Gino Bartali, siamo in cima al Mottarone e ci stiamo giocando il Giro d'Italia. E dal palco di Zeliga Radio 24, Daniele Racco. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Com'è andata a finire? Tu e la palestra, i 97 chili? Com'è andata a finire? Allora, per un certo periodo io e la palestra abbiamo litigato. Anche col tutone. Anche col tutone. E solo di recente ci sono tornato, ma con una motivazione ferrea. Io sentivo prima che i tuoi ospiti parlavano di motivazioni. Sì, ci vuole, la motivazione ci vuole, insomma, e secondo me bisogna non nascondersi. Il ciccione tende a fare questo, no? Rinuncia dopo un po'. Il ciccione è vero anche quando divagrisce, rimane ciccione dentro, è una filosofia di vita. Senti, ma tu da ciccione che insomma motivato, cosa stai facendo? Io sto facendo una follia, perché essendo un folle faccio una follia. Io mi sto allenando con la Italian Championship Wrestling, che è la federazione italiana di wrestling, e voglio vedere se nel giro di un anno riesco a passare da comico a lottatore. L'allenamento va avanti da 2 mesi, procede bene, sto imparando un sacco di cose. Senti, ma sei un po' smagrito? No, sei un po' più modellato? Sei peso, sì, ho riperso un bel 4,5 kg, sto facendo una dieta proteica. Dottor Confalonieri, siamo tranquilli? Ma ci sono almeno 3 cose bellissime che ha detto Daniele, così in modo molto leggero ma molto profonde. La prima era nello spot che abbiamo, cioè nell'intermezzo che abbiamo ascoltato, cioè che la persona grassa in palestra tende a vestirsi, soprattutto all'inizio, è verissimo. Uno dei grossi problemi della palestra è mettere a confronto i corpi, e questo crea dei problemi. La seconda cosa meravigliosa che ha detto è che il ciccione rimane ciccione dentro, è vero, è qualcosa che ci portiamo dietro comunque, al di là delle variazioni di peso che abbiamo e con la, che dobbiamo condividere e con la quale dobbiamo essere capaci di diventare empatici con gli altri. E la terza, la scelta dello sport di combattimento come mezzo per piacersi di più e per ritrovare la forma. Ecco, gli sport di combattimento, al di là di tutte le dimensioni psicologiche, sono sport che prevedono un allenamento estremamente intelligente ed efficace, e quindi sono assolutamente indicati per chi voglia trovare una strada alternativa al benessere fisico. Daniele, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di scriverci il loro metodo per fare gol, quindi per passare da uno stile di vita un po' così non salutare a uno stile di vita capace di ridurre i fattori di rischio e di farci stare meglio. Vorrei che anche tu ti misurassi in questa sorta di sfida che lanciamo ai nostri ascoltatori. Loro possono mandarci un messaggio al 349-238-6666, tu ce lo puoi dare in onda e vediamo se il dottor Confalonieri rimane, guarda, conquistato. Io il metodo che ho trovato, spero di aver trovato, perché poi bisogna vedere, perché ancora ci sono insomma 7-8 mesi, è quello di farlo sapere a più gente possibile. Cioè, ti spiego, io ho iniziato tante volte diete, di tutti, le ho fatte veramente tutte, tutti una dieta io l'ho fatta, e con risultati, se siamo ancora qui, ovviamente deludenti, e ho iniziato tante volte tantissimi sport, e poi si smette dopo un po', la prima volta che magari sei un po' stanco non ci vai, lasci perdere, da lì la discesa, no? Proprio verso il riprendere chili e il disfacimento fisico. Allora, io questa volta l'ho fatto sapere a più gente possibile, questa mia intenzione di diventare un lottatore, e quindi adesso se mi tiro indietro è veramente una bruttissima figura, e quindi non mi posso tirare indietro. Quindi comunicatelo a più persone possibile. Comunicatelo a più persone possibile, dimagrirò, diventerò un atleta, e poi se, insomma, se ti tiri indietro sei un cialtrone, per cui questo è il primo punto. Il secondo, questo è il mio sistema, mi sono imposto questa cosa che mi è leggermente sfuggita di mano, perché stai esagerando. Io volevo farlo sapere sì e no a 100 persone, e credo che ormai lo sappiano veramente migliaia. Ormai hai dato così, hai lanciato anche perché tutta questa esperienza diventerà un documentario, un docu-reality che spero andrà in onda da qualche parte. Allora, stiamo riprendendo tutta questa esperienza. Bene, Daniela. Daniele, allora comunicatelo. Questo funziona anche quando cerchiamo di smettere di fumare. Più lo diciamo, più anche troviamo negli altri una sorta di aiuto, no? Per evitare poi di ricadere nel nostro vizio, in questo caso, che anche se non è un vizio, ma... Per quanto siamo circondati da diavoli tentatori, Sì, e questo è vero. Che diavolo tentatore hai vicino a te adesso? Io in questo momento ho tutti i miei amici storici che sono quelli che mi invitano. Dai, domenica abbiamo prenotato in un agriturismo, bisogna andare, non puoi mancare proprio tu. E lì è veramente... Allora Daniele, noi speriamo di vedere anche questo docu-reality, chissà mai, che sia poi contagioso. Grazie per essere stato con noi. A presto, grazie a voi, buona giornata. Intanto io voglio leggervi i messaggi, i metodi che stanno arrivando al 349-238-6666. Abbandonare il lavoro che non mi lascia tempo libero, ritrovare le mie passioni all'aria aperta, soprattutto facendo molte vacanze, dormire con gradualità. Un abbraccio anche senza libro, Diego. Dottor Confalonieri. Beh, diciamo che questo concetto abbandonare il lavoro, cioè è vero, molte volte noi facciamo scelte che non sono in linea col benessere fisico così come è studiato e raccomandato, proprio perché queste scelte ci consentono di compensare gli stress, le frustrazioni, le problematiche che incontriamo sul lavoro. E quindi il problema è molto complesso. La ricetta di Daniele era una ricetta interessante. Tutto sommato con molti funziona. Qualche volta c'è anche il passo successivo, cioè fallire col tentativo che ha fatto Daniele, cioè lo comunico, alla fine non ce la faccio, sì. Brutta figura, e allora passo al passo successivo, provo a non dirlo a nessuno per stupirli. Anche sto questo. Zitto, mi nascondo nel mio angolo, finalmente dimagrisco e poi mi presento e creo sconcerto, ammirazione, invidia. Quindi per chi non ce l'ha fatta attraverso il metodo di Daniele, suggerisco il mio, che ho fallito la prima volta, e magari la seconda volta riprovo senza condividerlo con nessuno, ma per stupirli dopo. Effetto sorpresa, bravissima, chiamiamolo così. Bravissima. Ma il secondo punto del metodo Roberto è ascoltare il proprio corpo. Sentire il corpo, ascoltarlo, muoversi, sentirne i lamenti e scoprirne i punti forti, sentirsi con il corpo dentro il paesaggio e confondere la fatica della pedalata con la fatica della terra che gira su se stessa e poi intorno al sole fino a girare come se fosse un anello della concatenazione dei satelliti e delle stelle degli elettroni e dei nuclei e scoprire nel movimento rotondo la chiave del movimento in avanti. Giovanotti. Movimenti in avanti, intorno al sole, ma anche nell'acqua, giù, nella profondità del mare. 3, 2, 1. E noi andiamo a trovare Gianluca Genoni, primatista mondiale di immersione di apnea. Ciao Gianluca. Ciao a tutti, buongiorno. Senti, un campione di apnea, anche un campione nel riconoscere i segnali che il suo corpo gli manda. Penso che sia fondamentale per tutti, in tutte le attività sportive, ma immagino che uno che fa apnea come te e ai livelli tuoi deve avere una sensibilità particolarmente spiccata. Sì, è vero, una grande percezione del proprio corpo, riuscire a riconoscere subito i segnali di stanchezza, di qualcosa che non funziona, sono un po' la chiave per raggiungere i miei record, per raggiungere questi traguardi così difficili. Ecco. Senti, e come ti sei allenato ad avere questa particolare sensibilità? Ma mi sono avvicinato poco alla volta, tanti anni fa quando ho iniziato pensavo che attraverso solo la forza fisica, quindi attraverso il tanto allenamento fisico, si potessero raggiungere questi risultati. Con gli anni, col tempo, anche perché diventando un pochino meno giovane, la forza fisica viene meno, ho capito l'importanza della mente, quindi dell'autocontrollo, della padronanza del tuo corpo. Ho iniziato a fare tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento, ho affinato queste tecniche e devo dire che dopo tanti anni ho raggiunto una buona padronanza del mio corpo. Dottor Confalonieri? Ma sì, io partirei dalle considerazioni di Gianluca proprio per fare questa riflessione. Il corpo per la gran parte delle persone che ci ascoltano è qualcosa di sconosciuto. Io parlo della mia esperienza, io sport ne ho sempre fatto tutto sommato poco, e avendo avuto una figlia molto tardi nella vita, a 47 anni, ho cominciato a rientrare in rapporto con il mio corpo giocando con lei e ho scoperto di essere capace di fare cose che non pensavo di essere capace. Ecco, quindi secondo me questa dimensione di recuperare il rapporto con il proprio corpo e con le capacità del proprio corpo è qualcosa che deve appartenere a tutti. Si deve partire dalle esperienze dei grandi atleti come Gianluca per recuperare una dimensione che appartiene a tutti noi, cioè non evitarlo, confrontarsi con lui e probabilmente ci darà anche delle risposte, delle sorprese assolutamente positive. Gianluca, vuoi suggerire anche tu un metodo come quello che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori per ritrovare benessere, per cambiare alcune cose della nostra vita, nella nostra quotidianità e riprendere a stare bene, scoprire, come diceva il dottor Confalonieri, il nostro corpo, riscoprirlo, le potenzialità, conoscerlo meglio? Guarda, io ti dico quello che sto cercando di far fare la mia compagna. Lei le piace fare sport, ma non ha mai tempo per il lavoro così. E quello che sto cercando di fargli capire è di ritagliarsi tutti i giorni un po' di tempo per stare all'aria aperta, per fare attività sportiva, per stare in movimento. E grazie al movimento, all'attività sportiva, ritrovi proprio la percezione, la conoscenza e la sensibilità del tuo corpo. Io invece sono un caso un po' estremo, sono un po' all'opposto e devo cercare di non ascoltare quello che mi dice il mio corpo, perché a volte mi viene proprio di continuare a fare attività sportiva, di fare stare in movimento, allenarmi, e alla mia età magari un po' di riposo ogni tanto servirebbe, ecco. Grazie a Gianluca Genoni. Prego. Per essere stato con noi. 800 24 00 24 se volete intervenire. Dottor Confalonieri, quali sono le domande del giorno? Ma prima delle domande del giorno, una piccolissima considerazione. Gianluca ha parlato di riposo. Ecco, questo è un altro consiglio fondamentale. Quando ci alleniamo, quando con il nostro corpo abbiamo un rapporto positivo, quando lo sport e l'esercizio fisico sono momenti fondamentali della nostra vita, ecco, allora la parola riposo spesso è una parola che ci dimentichiamo, ma è una parola chiave. Il riposo ci consente di ottimizzare tutto ciò che abbiamo costruito con l'allenamento. È uno degli allenamenti fondamentali, la giornata di riposo, il periodo di recupero di riposo. Rispetto alla domanda del giorno, invece io aggiungerei una domanda a quella che hai già fatto, quella del metodo per stare bene, ed è questa. Come mai? Perché? Partendo da quale esperienza o da quale storia, detto molto sinteticamente, evitate di entrare in rapporto con il vostro corpo? Perché il vostro corpo è qualcosa che non considerate? Perché nella vita volete pensare ad altro, preferite pensare ad altro e non vi occupate né dell'esercizio fisico, né del benessere, né del rapporto col vostro corpo che magari non amate nemmeno così tanto? Abbiamo in linea con noi Fabrizio, ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno e benvenuto. Oh, ciao Nicoletta, buongiorno dottor Confalonieri. Eccoci. Ho mandato un messaggio a voi, mi hanno richiamato, grazie di essere richiamato, perché nell'ultimo anno e mezzo ho fatto una dieta importante, perché avevo dei grossi problemi, come dire, di gestione del grasso. Sì. E quindi ho perso 30 kg. Ma non è un messaggio che alcuni vicini di casa in passato, quando mi vedevano particolarmente stupido, diciamo, erano facili da prenderti in giro, eccetera, e adesso le grosse soddisfazioni è che non ti possono più prendere in giro, anzi, quando possono fanno finta di non vederti, magari quando vai a fare una corsa fuori, quando vai un po' a, come dire, a fare un po' di attività fisica, e probabilmente pensano di non darti soddisfazioni, mentre non ti fanno finta di non guardarti, in realtà la tua soddisfazione è ancora di più. Quindi Fabrizio, dottor Confalonieri, ha puntato un po' sull'effetto sorpresa. Bravissima. Ho capito. È da quello che ho mandato il messaggio. Ecco, dottor Confalonieri. Sì, perché secondo me l'effetto sorpresa è una grande... Intanto responsabilizza un po' meno, diciamocelo, perché poi ciascuno di noi deve essere consapevole delle sue fragilità. quindi se non mi espongo nei confronti degli altri ma ci provo nel silenzio, magari la prima volta non ce la faccio, la seconda non ce la faccio, la terza sì e la terza ottengo il mio obiettivo. E poi comunque una volta che ho ottenuto il mio obiettivo è evidente che la gratificazione che viene dal riconoscimento collettivo manifestato oppure manifestato attraverso l'ignorare il fatto che questa persona non possiamo più prenderla in giro diventa un rinforzo straordinario. Poi se il nostro amico ascoltatore ha perso 30 kg sicuramente ha fatto qualcosa di eccezionale, ma anche in termini di prospettiva di vita, cioè adesso al di là del riconoscimento si è garantito salute e prospettive di vita per tempi molto più lunghi, quindi credo che questo sia alla fine il risultato più significativo. Noi adesso andiamo a sentire i mercati, poi il meteo. 800 24 0024 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666, mandateci il vostro metodo, tre punti chiave, il dottor Confalonieri sceglierà il metodo migliore, oggi lo rendiamo giudice e l'ascoltatore riceverà a casa il libro di oggi. A tra poco. Un metodo per fare gol, scriveteci il vostro, quello che vi ha permesso di raddrizzare il tiro e ritornare ad uno stile di vita migliore, riducendo qualche fattore di rischio e ritrovando quel benessere che avevate dimenticato. Arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, vi abbiamo chiesto la ricetta, il metodo, il messaggio più efficace, a giudicarlo sarà il dottor Confalonieri, riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, 1001 modi per mantenersi in forma. Intanto continuano a chiamare i nostri ascoltatori, 800 24 0024, andiamo a sentire Giuseppe che ci chiama da Bari. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di domandare una cosa comporterebbe un'attività fisica moderato intensa per il sistema cardiovascolare, mi riferisco a quello che possono essere eventualmente le valvole cardiache oppure a livello renale, non so, ecco, e comunque Giuseppe l'abbiamo perso, ma la domanda di Giuseppe è molto chiara. Noi, sì, in termini di benessere generale è chiaro che l'attività fisica garantisce un miglioramento dell'efficienza del muscolo cardiaco e una diminuzione della pressione, quindi una significativa diminuzione dei fattori di rischio di patologie cardiovascolari in genere. Questo è garantito un'attività anche moderata, non necessariamente intensa, quindi di 2-3 volte alla settimana per 45-60 minuti al massimo. Allora, vorrei leggere intanto uno dei tanti metodi che arrivano. Mi piace questo che dice: concentrarsi sul lavoro da fare, sapere che tutti i giorni non sono uguali, quindi quando si sta bene, allenarsi bene, anzi molto bene. Dottor Confalonieri. Questo mi piace molto perché è uno dei segreti dell'atleta da una parte e di chi fa sport per il benessere dall'altra, cioè avere un programma, avere un metodo, avere delle idee, organizzare la vita in funzione di o considerando anche che c'è l'esercizio fisico, ma poi sapere ogni giorno interpretare l'allenamento in funzione delle risposte che ci dà il nostro corpo. Quindi quando si sta bene esagerare con intelligenza, quando non si sta bene avere la capacità di dire: bene, oggi sono stanco, oggi sono esaurito, oggi non me la sento, e quindi quel giorno non fare nulla e aspettare il giorno dopo. Credo che questo sia un segreto fondamentale. Ho 54 anni, ci scrive Renzo, e per rimettermi in forma mi sono fatto quasi 800 km a piedi del Cammino di Santiago. Ho ripreso tonicità, buon umore e serenità. Dottor Confalonieri. Beh, il cammino è una delle attività di base, per cui c'era anche uno scopo, c'era anche un fine, c'era anche una dimensione, se vogliamo, filosofico, spirituale intorno, quindi sicuramente è una ricetta vincente, anche perché, ripeto, camminare è un'attività aerobica, un'attività moderata, un'attività di resistenza, quindi per definizione produce salute. Dottor Confalonieri, ci sono alcuni messaggi che abbiamo letto insieme, tanto che sentivamo il meteo. Ci stiamo concentrando verso quello di Angelo da Treviso, che ci scrive: ho 33 anni e 4 anni fa ho smesso di bere alcolici e di fumare. Ho iniziato un corso di nuoto, uno di tango argentino, e sono diventato donatore di sangue e di midollo osseo. Ora sono felice. Dottor Confalonieri, Ma per ora questo messaggio lo mettiamo in testa e poi vediamo se arriva qualcosa di meglio. Lo mettiamo in testa per tre motivi. Il primo, la capacità di cambiare. Cioè nella vita è sempre possibile cambiare, non è che la nostra storia ci debba condizionare. Il secondo, la scelta dell'attività. Abbinate un'attività di base come il nuoto con un'attività divertente, situazionale, piacevole come la danza. Quindi l'effetto sul proprio organismo e sulla propria psiche è ideale. Il terzo, accompagnato questa scelta con una scelta di generosità, diventare donatore di sangue e soprattutto di midollo. Ne parlavi, mi sembra, in una trasmissione di qualche giorno fa, la capacità di fare il bene degli altri, quindi di donare felicità, spesso determina felicità. Quindi queste tre scelte insieme, capacità di cambiare, scegliere lo sport con intelligenza, occuparsi degli altri, sono una garanzia di quel benessere globale di cui parliamo da anni. Infatti stiamo orientandoci verso un metodo che non riguarda solamente l'attività sportiva o la riduzione delle calorie, ma va oltre questo, dottor Confalonieri, no? Che fa va oltre in linea con la nostra filosofia, cioè l'importante è che uno stia bene globalmente e complessivamente. L'esercizio fisico deve essere un elemento per stare bene nella nostra pelle. Stare bene nella propria pelle, come dicono i francesi, dipende da tante cose e non soltanto dall'allenamento che facciamo. Allora io direi non andare oltre, perché ci sono tantissimi messaggi, sì. Ad esempio ridurre i dolci, fare tanto movimento e mangiare tante frutta e verdura, ma il messaggio di Angelo ha conquistato il dottor Confalonieri. Io lo premierei senz'altro. Quindi Angelo, grazie alla collaborazione con IBS, riceverà a casa 1001 modi per mantenersi in forma. Angelo con il suo metodo ha fatto gol. Ne deriva che i rossoneri sono in campo con Giovanni Galli tra i pali, Tassotti e Paolo Maldini difensori di fascia, Belli e Ciocci di punta. Ci sono gol e gol, alcuni sono più importanti di altri. Uno in particolare cambierebbe la vita di tutti noi. In linea il professor Vincenzo Bronte, professore di immunologia all'Università di Verona e ricercatore dell'Istituto Oncologico Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno agli ascoltatori. Il ricercatore padovano, vero? Così veniva soprannominato in America. Adesso è tornato per giocare qui in Italia la partita contro il cancro. Professore, nel calcio c'è attacco e difesa e se i due reparti funzionano si fa gol. Ma anche per la ricerca funziona così? Sì, assolutamente. Soprattutto nella ricerca che noi facciamo, noi tentiamo di stimolare la risposta immunitaria nei confronti del tumore, quindi un forte attacco specifico e diretto verso le cellule neoplastiche, però il cancro si difende e quindi quello che è necessario è anche abbassare le sue difese, agire contemporaneamente su questi due fronti. Solo così si riuscirà, e questo credo la pensino in molti colleghi, si riuscirà ad eliminare efficacemente il cancro. Infatti, professore, noi sappiamo che il cancro può attaccare la nostra vita, ma perché è così difficile difendersi? Il cancro sembra un nemico molto astuto, intelligente, quasi capace di prevedere le nostre mosse, o sbaglio? Sì, in realtà non è una mente pensante, è un sistema estremamente adattabile che prende tutto quello che può utilizzare dall'organismo e lo devia a suo favore, in maniera da controllare l'ambiente in cui si sviluppa, ma anche delle risposte più generali, come appunto dicevo la risposta immunitaria. Questa sua capacità di adattamento dipende dalla enorme capacità di mutare geneticamente, quindi di selezionare delle cellule che via via sono più adatte al nuovo ambiente che si viene a creare. Professore, quindi potrebbe essere corretto paragonare il cancro ad un trasformista? Sì, assolutamente, questa è una definizione azzeccata. Il cancro è uno dei più grandi trasformisti quando parliamo in termini di malattie che colpiscono l'uomo, ed è il punto centrale. Dobbiamo agire di fantasia di fronte a un trasformista del genere. su diversi fronti. Professore, quali sono attualmente le mosse strategiche della ricerca per dare scacco al cancro? Bene, credo che la ricerca in questi anni, la ricerca oncologica, si stia orientando su alcuni aspetti fondamentali. Prima, la comprensione che è abbastanza avanzata dei geni e delle molecole cardine che sottendono al processo di trasformazione neoplastica, ma questo non basta. Abbiamo anche iniziato a capire come il cancro interagisce con l'ambiente che lo circonda, che viene chiamato microambiente, e come poterlo isolare, come tagliargli i rifornimenti, ad esempio attraverso un'azione sulla vascolatura. E inoltre, questo è l'aspetto emergente, abbiamo capito che solo alcune cellule cosiddette staminali del cancro sono quelle che effettivamente danno origine all'intera neoplasia e che vanno eliminate, che per qualche motivo sono più resistenti delle altre. Sono stati fatti molti progressi nel definire gli aspetti biologici di questa sottopopolazione all'interno dei tumori umani. Professore, quindi uniti si vince. Sì, assolutamente, uniti si vince. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, buona ricerca. Grazie, grazie a voi. E noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24, uniti si vince. Noi ci sentiamo subito dopo, a tra poco. Ed eccoci, siamo tornati insieme, uniti si vince, quindi è fondamentale che tutti noi ci sentiamo parte di una squadra, perché ciascuno può giocare un ruolo da campione nella lotta contro il cancro, e noi abbiamo una grande campionessa in linea, Margherita Granbassi. Margherita, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Margherita, anche hai tu, detto bene. Vero? Sei d'accordo? Margherita, tu scendi in campo per battere il cancro, per fare gol, tradotto in una mossa di scherma, una stoccata decisiva, giusto? Beh, sì, direi un affondo, speriamo un affondo. Senti, cosa significa per te essere parte di questa squadra? Beh, guarda, per me è un orgoglio immenso sicuramente, perché ho vinto delle medaglie, sono delle cose importanti sicuramente, ma è grazie a quelle medaglie che posso aiutare delle altre persone, quindi è una cosa che diventa ancora più grande e quindi cerco di dare il massimo, di fare del mio meglio per incentivare appunto l'aiuto alla ricerca, che come dice lo slogan ci dà così tanto, giusto? È vero. E quindi ovviamente noi sportivi, chi ha la fortuna di poter fare da testimonial per queste associazioni, ha una grande responsabilità, penso. Margherita, per dare scacco al cancro è fondamentale investire, sostenere la ricerca, ma anche, noi a Essere Benessere lo ripetiamo sempre, puntare sulla prevenzione, su cui, devo dire, pesano ancora falsi miti. E proprio per fare chiarezza e anche conoscere il nostro grado di conoscenza sulla prevenzione dei tumori, l'AIRC ha preparato un test, potete trovarlo proprio sulla pagina di Facebook. Margherita, il test ha 10 domande, noi ne facciamo alcune, tu ci stai? Possiamo misurarci? Certo. Allora, andiamo con la prima domanda. Dopo anni che si fuma, smettere è inutile. Vero o falso? Margherita. Falso. Gli studiosi dimostrano che, benché il rischio non si azzeri del tutto, le probabilità di ammalarsi si riducono quando si smette di fumare. Ogni sigaretta in più aumenta il rischio, quindi in qualsiasi momento si decida di smettere di fumare, si avrà comunque un guadagno in salute. E noi andiamo alla seconda domanda. Pronta, Margherita? Vai! Vai! I cibi integrali sono meno calorici di quelli raffinati. Vero o falso? Margherita, tocca a te. Falso. Non ci sono differenze sostanziali dal punto di vista delle calorie. I cibi integrali, però, hanno un basso indice glicemico e favoriscono quindi un rilascio lento e graduale dell'insulina, con un effetto protettivo nei confronti di alcuni tumori, per esempio quello del seno. E andiamo alla terza domanda. Il cioccolato è antidepressivo. Vero o falso? Margherita? È vero, noi donne lo sappiamo bene questo. Andiamo. Nel cioccolato sono contenute alcune sostanze che agiscono a livello del sistema nervoso centrale in modo analogo alla serotonina, un neurotrasmettitore che stimola la sensazione di benessere. Il cioccolato fondente, con almeno il 70% di cacao, è utile anche nella prevenzione dei tumori grazie al suo contenuto di sostanze antiossidanti, i flavonoidi. E noi andiamo ancora, Margherita, abbiamo ancora una quarta domanda. Vi ho detto che comunque il test che potete trovare su Facebook, organizzato dall'AIRC, ha 10 domande, ne facciamo 4, sentiamo la quarta. Fare esercizio fisico previene il cancro, vero o falso? Margherita, questa l'abbiamo lasciata tutta per te. È verissimo. Questo, guarda, infatti io cerco di incentivare tutte le persone a fare sport perché fa bene per tutto e fa bene anche per questo. Infatti le ricerche lo dimostrano. Per questo noi ne parliamo sempre, ma in modo particolare ogni venerdì qua a Essere Benessere parliamo di attività sportiva con il dottor Franco Confalonieri, cercando di così inserire, di farla diventare proprio un elemento di quotidianità, perché ci permette comunque di vivere più a lungo e di vivere meglio. Dottor Confalonieri, sì, qua entra in ballo il medico. Ma due aspetti sottolineerei. Innanzitutto, l'esercizio fisico di per sé riduce il rischio di tutta una serie di tumori, quindi è un fattore preventivo fondamentale. E poi c'è un altro punto di contatto sul quale credo Margherita possa convenire, cioè io mi sono reso conto che l'atleta di alto livello ha la capacità di porsi un obiettivo e di lavorare per raggiungere questo obiettivo attraverso passi successivi. E un po' la stessa mentalità, lo stesso approccio potrebbe caratterizzare il malato che si pone l'obiettivo della guarigione e lo raggiunge attraverso passaggi intermedi, attraverso quella famosa gradualità di cui tante volte parliamo. Quindi davvero i punti di contatto tra l'atleta e il malato in questo caso sono molti, nella capacità di approcciare il problema, porsi un obiettivo e realizzarlo. Margherita. Sono assolutamente d'accordo. C'è un'altra cosa in comune che abbiamo, però, che l'obiettivo è quello di sconfiggere l'avversario, giusto? Nel mio caso è un altro atleta, nel caso invece di persone affette da cancro e appunto la malattia. E questa lotta, questa sfida per dare questo affondo al cancro, scacco al cancro, l'AIRC mobilita tutti i suoi ricercatori che noi sosteniamo, giornata per la ricerca sul cancro. Ci sono tanti appuntamenti che io vi invito a visionare sul sito dell'AIRC. Margherita, ce ne vuoi segnalare alcuni? Vuoi dare tu come testimonial dell'AIRC l'appuntamento agli ascoltatori di Radio 24 per avvicinarsi alla ricerca, sostenerla e crederci e diventare anche proprio soggetti, no? Attivi nella prevenzione. Guarda, ci sono dei numeri da poter numero per poter mandare degli SMS che è 45508 e poi c'è il numero verde per fare delle donazioni magari un pochino più consistenti ed è 800 350 350. Poi questa settimana sappiamo che in collaborazione con la RAI ci sono tanti programmi che cercheranno di incentivare l'aiuto alla ricerca. Io domenica sera sarò presente ad Elisir. Benissimo, Margherita, allora ti abbiamo già avuto in anteprima, no? In anticipo rispetto a Elisir, splendida trasmissione. Grazie allora Margherita Granbassi per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a te Margherita. E noi voltiamo pagina perché volevo segnalarvi che oggi si conclude la nostra iniziativa Un pizzico in meno, tanta salute in più, in collaborazione con Mario Negri di Bergamo. Molti di voi ci hanno seguito, ci hanno chiesto di ricevere a casa i consigli per aiutarli, per essere aiutati a ridurre il sale, che abbiamo visto proprio una piccola riduzione, dottor Confalonieri, che si traduce in una riduzione della pressione arteriosa. Questo è sicuramente molto importante perché ridurre un fattore di rischio ci aiuta a stare anche bene. Sì, e soprattutto il significato è legato al fatto che un piccolo passo ogni giorno porta a un grande passo nel tempo, che è un'altra delle tematiche che affrontiamo spesso. Quindi un po' meno di sale tutti i giorni, un grande traguardo nel tempo, un piano di scale tutti i giorni, un grande risultato nel tempo. Direi che la filosofia che c'è alla base è assolutamente la stessa. Quindi un pizzico in meno, tanta salute in più, misuratevi la vostra pressione, se avete seguito le nostre indicazioni fateci sapere come è andata. molti di voi ci stanno dicendo che sta andando davvero bene, ma Essere Benessere, come sapete, grazie alla collaborazione del team del dottor Franco Confalonieri, vi aiuta a preparare le ultime settimane che ci separano dalla Maratona di Firenze. Sì, è partita questa iniziativa, in tanti ci stanno cercando, vi aiutiamo a gestire la parte finale della preparazione, il riposo, la terapia, l'alimentazione, gli ultimi allenamenti per arrivare in forma, nel pieno del proprio benessere, a correre questa maratona. Insomma, noi siamo sempre a vostra disposizione. Essere Benessere @radio24.it, il nostro profilo Facebook, i nostri esperti che si mettono a disposizione. Intanto io vi saluto, dottor Confalonieri, noi ci vediamo venerdì prossimo. Invece ai miei ascoltatori do appuntamento a domani, questa casa non è un albergo, sempre a mezzogiorno insieme ad Alberto Pellai. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e Benessere.